Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con gli amici dell'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto ai radioascoltatori. Allora Gianluca, parliamo di monetine, perché quando ne abbiamo un po' troppe sul nostro portamonete, abbiamo portamonete pesante, io spesso cerco di liberarmene, però quando ti servono poi non le hai mai. È un po' un problema quello delle monetine. Parliamo del fatto che c'è questo decreto che andrà a far morire dal nostro portafoglio proprio le monetine di 1 e 2 centesimi. Sì Francesco, questa è la notizia, una notizia che dopo andremo a cercare di capire se sia buono o meno, che deriva da un decreto legge del governo che intende da gennaio 2018 eliminare le monetine da 1 e 2 centesimi. Ecco, ora chiaramente questo tipo di intervento ha vari vantaggi e diciamolo subito, allo stato attuale le monetine di 1 e 2 centesimi forse servivano ogni tanto al supermercato quando la cassiera appunto si chiede se abbiamo quelle monete per poter darci il resto meglio, però oggettivamente non si possono usare per le macchinette del caffè, non si possono usare quasi da nessuna parte. E diciamocelo, tante volte anche se ci cadeva per terra la lasciavamo là la monetina da 1 o 2 centesimi perché non ha alcun tipo di valore. Quindi questo decreto legge sicuramente è un decreto legge che non andrà a rovinare la vita ai cittadini, anzi con ogni probabilità la migliorerà. Avremo solo delle monete che partono dai 5 centesimi in su, questo chiaramente ci potrà facilitare la vita per molti versi ai cittadini. E questo sicuramente sarà un grande vantaggio anche per lo Stato, perché questo decreto legge, secondo i primi calcoli, varrà un risparmio di 20 milioni di euro, che quindi insomma è un risparmio sicuramente importante, soprattutto considerando il poco utilizzo, il basso utilizzo di questo tipo di monete. Certo, perché stampare quelle monete costava più del loro valore. Visto che veramente l'utilizzo è divenuto inutile, forse non è mai stato utile, e a questo punto possiamo solo dire che possa essere un vantaggio. Quindi diciamo dal 2018 probabilmente non avremo più le monetine da 1 o 2 centesimi, non verranno più coniate, ma certamente avremo ancora le case piene, i portafogli pieni, perché chiaramente come sempre si andrà ad esaurimento, quindi non è che da gennaio 2018 spariranno queste monetine, semplicemente non verranno più coniate e poi supponiamo che nell'arco di molto tempo non le vedremo più. Ecco, e come cambierà la nostra spesa? Ma la nostra spesa sostanzialmente cambierà relativamente, nel senso che chiaramente se poi i prezzi in buona sostanza rimarranno quelli che possiamo vedere adesso, quindi anche con delle tipo di cifre che prevedono anche monete da un centesimo, quindi 5,47 euro, 6,99 euro come spesso vediamo, visto che molte volte i negozi tengono sotto il prezzo intero proprio per far sì che sembri che il prodotto costi meno. Quindi diciamo con la carta andremo a pagare il prezzo che viene richiesto, quello indicato, mentre se andiamo a pagare in contanti chiaramente in questo modo dovremo andare a procedere a degli arrotondamenti esattamente come quelli che si fanno in matematica, e tendenzialmente lo scontrino poi riporterà due valori, quello effettivo che è il valore da pagare con carta e quello invece arrotondato nel caso in cui si paghi in contanti. Quindi diciamo che non ci si complicherà particolarmente la vita, si procederà a degli arrotondamenti che chiaramente in alcuni casi possono essere a vantaggio del negoziante, di chi vende insomma, in altri casi può essere a vantaggio del cliente. In ogni caso non intravediamo allo stato attuale un rischio di inflazione o altri rischi di questo genere. Certo. Riteniamo invece che fosse una cosa necessaria, perché appunto a questo punto c'è un risparmio per lo Stato e ovviamente c'è una certa comodità anche per il consumatore. Facciamo un esempio allora, caro Gianluca, immaginiamo che io devo pagare 5,52 euro, sì. Cosa succederà? A quel punto andremo a fare un arrotondamento per difetto e andrò a pagare 5,50 euro. Se fosse 5,53? se fosse 5,53 andremo a pagare 5,55. Quindi i due centesimi li rimetterà fondamentalmente il cliente che sta facendo l'acquisto. Va bene, mi sembra tutto chiaro, speriamo che insomma non ci siano grossi problemi e che effettivamente poi questi 20 milioni di euro risparmiati insomma vadano per il sociale, almeno ce lo auguriamo. Grazie a Gianluca Codognato, ricordo il sito www.associazionedifesaconsumatori.it, sito che potete andare tranquillamente a leggere perché ci sono sempre notizie interessanti. A presto. Ciao Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.